LGBT ugrado, e sto meglio giorni LGBT ugrado, per tutti gli aggrei a me peggio, ne ma craia di dienza raggia, io sto gira in trava, giorni LGBT ugrado, e sto meglio giorni LGBT ugrado, per tutti gli aggrei a me peggio, ne ma craia di dienza raggia, io sto gira in trava, treve mongrado, voglio treve mongrado, ma treve mongrado, voglio treve mongrado, a breve un caldo, a breve un caldo, ¡Gracias!